Tano sale facile na hari se di ufihlela mwanesu yo batla se fahle wa sahai na go sale de mutimo uri ke ana tsela ya nnete le bophelo ka o sa feeling batla se batla o sa hae mwanesu eh di sa tsa hae ha di fetu e mwanesu lo ho a go dule dula o mone mo ha batla se batla o sa hae ka o sa feeling Ela ora dire ausana di mesa ha ausana di mesa ha Morena Jesu a kodule utsise utsiba taba sahau manesu a kodule dula morena Jesu kufihlela ata Siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo,